qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo, chiacchiere distintivo. Si sente. L'avevamo appena detto, è un anno che non mettiamo mano al marchingegno. E come il più giovane dei dilettanti, perché il mixer della radio non si è affatto complicato. Non c'entrava l'avviso di disconnessione. Sì, siamo tornati un anno di esilio, autoesilio, insomma, da questo strano posto che si chiama remoto. Regoliamo pure un po' i livelli, la voce più alta è meglio, dai. Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. www.ondarossa.info, il sito della radio dove trovate uno la modalità per sostenere questa radio. Andate sul banner dove continua la campagna 30 per 1000. 30 euro per 1000 di voi significa un anno di Radio Onda Rossa. Ma comunque noi non stiamo con le mani in mano e stiamo mettendo in campo un po' di iniziative. Tutto si risveglia come se fosse una primavera fuori stagione, o almeno questa è la nostra impressione, e forse per il nostro temperamento pure troppo. Quindi dicevamo, stiamo mettendo in campo una serie di iniziative nei vari spazi occupati di Roma, che mano a mano, ascoltando queste frequenze, vi andremo a svelare. Comunque rimane pressante l'invito a sostenere la radio, quindi la campagna 30 per 1000. Così come quella di passare qui in radio o usare i vecchi canali che potrete trovare sempre sul sito della radio. Troverete due sul medesimo sito i podcast delle trasmissioni, delle corrispondenze, dei punti salienti della programmazione della radio. Infine potete ascoltare lo streaming di Radio Onda Rossa ovunque voi siate. Onda Rossa @ondarossa.info, la mail della redazione per comunicare con noi, anche se funzionano anche i social a questo compito. E infine ve lo possiamo dire, finalmente ve lo dicevamo, ma non sapevamo poi in realtà se c'era una rispondenza vera o fittizia. 0649 17 50, recapito telefonico della radio dal 1977 questo, eh? E perciò fatelo squillare. Telefono che utilizzeremo questa sera perché abbiamo la puntata abbastanza piena. La divideremo in tre parti, ma forse sarà una parte unica, anche se poi in realtà andremo a parlare di cose, se non agli antipodi, comunque, dato che sono tre a 120 gradi una dall'altra, se non facciamo male i calcoli. Cioè andiamo a presentare l'ultima uscita che abbiamo già raccontato nella scorsa puntata per quanto riguarda la i torinesi Bull Brigade, che conoscete bene da queste frequenze. anche perché gli dedichiamo come radio un 4, 5, 6 anni fa un concerto, un 5 band o 6 band in quella della Nina Viscosa. Poi Capo dei Neid, altra uscita per loro, una cover, e andremo a scoprire perché e per come. E poi in studio con noi, che interverrà quando gli pare, e presenta pure lui un'uscita recente. Si tratta di Gorbol Pongit, ormai una voce abbastanza assidua degli 87 e 9. Nations with sound laws and policies will attract more foreign investment. They will earn more trade revenues. And they will find that all of these sources of capital will be invested more effectively and productively. Sacrificed our life fighting the apartheid regime, hoping that things would be better. We are going for a revolution. Eccoci qua, pronto, ci sei? Sì, ci sono. Ciao Eugi. Buonasera. Allora, anche voi, insomma, poi ho scoperto alla fine di prove, come quasi tutte le band, i gruppi, il mercoledì sera. Sì, diciamo che il mercoledì è un po' il giorno fisso che abbiamo, poi talvolta ne facciamo anche una seconda che varia a seconda degli impegni che abbiamo, però sì, tendenzialmente il mercoledì è il giorno dedicato, insomma. Va bene, allora ti rubiamo 10 minuti, così, perché un po' ci è arrivata voce, un po' abbiamo notato con piacere l'uscita di questo singolo per ora, insomma, soprattutto in rete, per quanto riguarda una ricorrenza importante, insomma, in qualche maniera, che è quella dei 15 anni dei Bull Brigade, e qualche giorno fa, quando è uscito il singolo, dei 40 anni, però insomma lasciamo la cosa in sospeso, a meno che tu non voglia aggiungere altro. Allora, ma... sì, vai. Sì, sì, no, finisci pure, scusami. No, no, dicevo, veniamo tutti e noi abbiamo addirittura ricominciato a trasmettere in diretta dalla radio. Trasmettevamo comunque in diretta, ma da remoto. Abbiamo cominciato a ritrasmettere dopo un anno dagli studi della radio, ritornando in città e così vedendo le strade, eccetera. Sta succedendo evidentemente qualcosa dopo questa bolla, questa sospensione. Questi erano poi ragionamenti che facevamo in studio questa sera con un po' di compagni e con cui ci siamo rincontrati, appunto. La domanda è quasi scontata, penso che già ve l'avranno fatta, insomma, cosa è successo in questo anno di sospensione del tempo in qualche maniera, o se poi in realtà alcuni per le proprie attività, per la propria condizione personale, questa sospensione in realtà non l'hanno mai vista, insomma, cosa è successo per voi e come esce, andiamo... sì, e come esce dopo l'uscita del 2019 questo lavoro che state mettendo in lavorazione, appunto, in atto in questo periodo. Sì, allora intanto partiamo da un presupposto che è quello della situazione interna personale dei Bull Brigade prima che succedesse tutto questo casino legato all'emergenza sanitaria. Noi venivamo già da un periodo nel quale avevamo deciso di sospendere le nostre attività live per fare un attimino riordinare le idee e cercare di un attimo di capire cosa doveva essere il nostro futuro come band. Avevamo fatto un percorso molto stancante dopo l'uscita di Vita Libertà, con i soliti cambi di line up che hanno contrassegnato il nostro cammino, quasi sempre solo dettati dall'intensa attività live e quindi da un impegno che poi non tutti riuscivano a portare avanti per una serie di ragioni personali. E quindi noi comunque arrivavamo già ad un percorso nel quale ci eravamo presi un periodo di riflessione che poi man mano stava andando, cioè il clima si stava rasserenando ed era maturata in noi la consapevolezza di voler continuare e di voler scrivere un disco nuovo. Non appena abbiamo iniziato a prendere le misure e a ragionare su un eventuale ritorno, avevamo già una data al Punk and Disorder di Berlino che avevamo deciso di prendere, è scoppiata appunto questa situazione che ovviamente per tutti, per chiunque, era assolutamente inedita, che ci ha un po' sparigliato le carte e ci ha preso un po' alla sprovvista, costringendoci a affrontare un periodo di separazione forzata, anche perché noi abitiamo in comuni diversi, chi della città di Torino e chi, come me ad esempio, della provincia, e quindi abbiamo iniziato a lavorare in maniera assolutamente nuova per noi, ovvero a distanza, con le produzioni, col songwriting da casa, con le registrazioni homemade di chitarre, di riff che mi venivano passate, io che impegnavo le mie giornate a scrivere, e di lì a poco ci siamo resi conto che quello che stava venendo fuori era appunto un qualcosa di veramente interessante che vale nonostante le difficoltà tecniche, diciamo. Nonostante le difficoltà, ci siamo trovati con nell'arco di poco tempo tutta una serie di progetti aperti che sentivamo veramente forte e veramente nostri. Cosa è successo? Poi c'è stata una parvenza di rischiarita nella prima estate, poi il ritorno della seconda ondata. E arriva il 2021 con i Bull Brigade, che comunque volevano in qualche modo festeggiare questo importante traguardo dei 15 anni di attività, però ovviamente il discorso era ancora quello dell'assoluta incertezza. Abbiamo ultimato tutte le cose, siamo stati nello studio di Fabio Valente, che il cantante di Arsenico, che ha ripreso, con il quale abbiamo ripreso in mano tutte le canzoni, le abbiamo rimesse in discussione e abbiamo dato un filo logico armonizzandole e cercando di anche variare un po' i ritmi e i tempi delle stesse. Ci siamo preparati al meglio delle nostre possibilità e siamo entrati in studio a Torino, al One Black Sock Studio, che era la vecchia sala prove dei Linea 77, dove abbiamo conosciuto questo ragazzo estremamente bravo che ci ha fatto le riprese. E poi siamo andati, ovviamente non in presenza, abbiamo portato tutto a mixare e masterizzare invece alla distilleria di Bassano del Grappa, da Iccio, che è una vecchia conoscenza della scena punk hardcore del nord-est, perché era colui che gestiva e animava l'ex studio. E quello che è venuto fuori, diciamo, è una roba della quale siamo estremamente soddisfatti. Un disco ovviamente molto maturo del giorno dopo, che non ha più le sonorità dei Cool Brigade ventenni, e appunto ha le sonorità dei Cool Brigade quarantenni. Non a caso abbiamo proprio scelto questa canzone, perché è un po' un preludio di quello che sarà questo disco, nel senso che è un disco sicuramente con le stesse atmosfere e lo stesso taglio comunicativo che ha da sempre contraddistinto i Bull Brigade, però con delle sonorità e un piglio, diciamo, e un mordente non più che porta lo smalto di un gruppo ventenne, ma con un approccio un po' più maturo e un po' più adulto. Con tutto questo c'entra anche il fatto che poi state sperimentando o avete sperimentato delle date tutte acustiche? No, questo è appunto venuto in un secondo momento ed è legato al fatto che in qualche modo noi avevamo la necessità e la voglia di riprendere e dare un segnale di ripresa. E, ovviamente l'unica modalità quando abbiamo deciso di fare questa cosa che ci dava qualche barlume di speranza era appunto fare uno show acustico come tante altre band stavano preparando. Penso ad esempio i Pancras, so che sono in giro con una roba simile e se ne vedono parecchi, perché appunto ancora non c'era una chiara previsione di quello che poteva essere il luglio italiano dal punto di vista dei concerti. Quindi ci abbiamo provato, abbiamo preparato questo set, siamo riusciti a trovare ben 7 città che hanno deciso di scommettere su questa roba e di ospitarci, e quindi in una modalità assolutamente inedita, che poi in realtà c'era già capitato qualche volta, l'avevo fatto credo un paio di volte quando erano stati liberati dei compagni a Torino. Avevo fatto, è più sbrigativo, diciamo, tecnicamente è più facile da realizzare, quindi si può fare, sì, il 448, insomma, un set acustico. Sì. E niente, quindi questa roba qua è una roba che è slegata dal percorso del disco nuovo, ma l'abbiamo, diciamo, inserita per un po' occupare gli spazi che ci separano dall'uscita del disco, che è prevista per settembre, ma nello stesso tempo ci fa riprendere un attimino confidenza con il palco, con la gente, con la nostra gente, con i posti, e tutta una serie di discorsi che sono facilmente intuibili. Ok, allora, dunque, credo che abbiamo sì dei problemi a mandare proprio 40. Vabbè, poi per ora ti facciamo ancora un'altra domanda. Appunto, notavamo che in questo caso il tour organizzato, diciamo, è un tour essenzialmente di locali, mi sembra di capire, e non di spazi occupati, non ce ne sono, non ho letto bene, poi ci farei sapere te. Anche questa, diciamo, è così un'esigenza del periodo, proprio perché molti spazi sociali hanno anche difficoltà, ovviamente in tanti posti non c'è la possibilità di avere dei professionisti appunto che siano in grado, in 448 c'è sicuramente un periodo di stanca di basso, di riprendere un po' le redini come tutti della situazione per ricominciare le attività, appunto. È un po' questo il dato, o quale altra idea sostiene appunto questa scelta o non scelta, insomma, ecco. La domanda è un po' questa, è una scelta o non è una scelta? Ma no, in realtà ce n'è su sette, mi sembra che due sono, ci sono, dove e sono disponibile, sì. Il campetto occupato di Giulianova, che tra l'altro sarà a maggior ragione un piacere doppio tornare, perché sappiamo che ultimamente ci sono delle intenzioni di sgombro da parte della giunta della città. E poi c'è anche a Vicenza al Bocciodromo, che se non sbaglio è un centro sociale, quindi un paio siamo riusciti a chiuderli, ma non credo che ci sia una regia ben precisa dietro a questa ai luoghi dove siamo riusciti un po' ad andare a far musica. Abbiamo provato in altre città comunque dove avevamo delle comunque anche un discreto riscontro di pubblico, però molti posti ancora devono un attimino riorganizzarsi, devono rimettersi un po' in piedi per quanto riguarda le questioni degli impianti, delle serate, e quindi non c'è stato modo di metterne altri. Comunque i primi che ci hanno dato la disponibilità, noi ovviamente abbiamo subito confermato la data, perché i tempi erano quelli che erano, insomma. Certo. E la voglia di suonare? La voglia di suonare, che domande, tantissima. Calcola che noi siamo da 2 anni fermi, e quindi ci abbiamo questa prima data venerdì prossimo, il 2, a Parma, e poi sabato 3 saremo a San Lorenzo, a Scalo Playground, e quindi a maggior ragione invitiamo tutti gli ascoltatori a passare tra l'altro il concerto gratuito, l'unico concerto gratuito di tutti i 7 che andremo a fare è proprio quello di San Lorenzo, quindi un motivo in più per tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa di venire quella sera a trovarci e a sentire cosa abbiamo preparato. Ok, allora io direi che ti posso liberare se non hai null'altro da aggiungere. Magari diremo poi nel corso della trasmissione, appunto, rivedremo un po', leggeremo quelle che saranno le date in Italia e del mini tour, e se puoi rimanere un attimo in privato, ok? Va bene, io vi ringrazio molto, un abbraccio forte a tutti i compagni. Ah, aspetta, amici. Ti saluta Valerione, questa me, cioè, ecco. Infatti Valerio è stato una persona che ha avuto un ruolo fondamentale nel rapporto che si è poi andato a creare tra i Bull Brigade e Radio Onda Rossa, perché è stato uno di quelle persone che ha coltivato e ha consolidato in primis un rapporto personale con noi, e facendolo poi crescere a tal punto da prenderci una mattina e portarci negli studi di Radio Onda Rossa, che è stata un'esperienza sicuramente, sarà per noi per sempre un motivo d'orgoglio, ma comunque anche una piacevole mattinata che ricordiamo sempre con molta felicità e un ottimo ricordo, insomma. Va bene, ti ringraziamo. Allora rimani un attimo in privato, noi nel frattempo mandiamo Bull Brigade, ovviamente, e poi adesso ci attrezziamo per trasmettere anche 40, che è appunto questa uscita di 2 settimane fa, no? Più o meno. Sì, il 12 giugno. Uscita. 12 giugno. Benissimo, ti ringraziamo ancora. Ciao ragazzi, buonasera. Che si stringeranno poi. che abbia il suo sapore e in fondo al cuore. Questa è 40 Bull Brigade, un anticipo sul prossimo disco in uscita a settembre, Onda Rossa 87.9 da capo. Come l'egoismo è il sentimento fondamentale della religione della proprietà. Io sento che questa condizione mi sta diventando insopportabile. Così come lo sta diventando per molti di voi, di voi. Avere nulla più di quanto oggi ho, fino alla morte. Minuti primi le frequenze di Radio Onda Rossa e prepariamo la prossima telefonata. Perché quello che state sentendo sotto la nostra voce, questo muro impenetrabile di massicce discordanze, è il suono degli etruschi, Neid. E fra pochi secondi avremo anche una corrispondenza con loro. Radio Onda Rossa, 25 o'clock. 61 80 40 01 è il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. Via dei Volsci 56 00 185, Roma San Lollo. Questo è un loro vecchio lavoro, Non ripetere, Est Hereditas, Neid. No! tempo è perduto. Città è grande nei vostri occhi. Silenzio, prova ad ascoltare. Inquieto e violento. Grandi intorno a me. La legge a fuga è ciò che non deve essere importante. Brucio male ancora. Brucio male ancora. Mi è stanca di ricercarli nella mia testa. Rabbia dentro me. Rabbia dentro me. Un po' di difficoltà a prendere la linea. Ci siamo quasi, Onda Rossa 87. Eccoci. Ed eccoci in diretta di nuovo, Gabò dei Neid. Allora, ci siamo. Eccoci, buonasera a tutti. Allora, ci risiamo perché appunto pure noi siamo tornati a trasmettere nuovamente dagli studi della radio dopo un anno. Insomma, abbiamo tutti vissuto un periodo di sospensione più o meno a cui per forza di cose abbiamo avuto la volontà di decretare la fine. Stavamo parlando prima con Bulbigate, con Cobol Pongide, adesso di questo profondo, lungo digiuno live che ci ha un po', sia la parte di chi ascolta, alle volte organizza come noi, sia dalla parte di chi suona, di chi è abituato a, diciamo, dall'attività live a prendere. La parte, forse una delle parti più belle della nostra vita. Che cosa è successo in questo periodo di sospensione, di digiuno? Raccontaci un po', dai. Ma guarda, posso dire personalmente è stato molto duro, è stata molto dura, come per me, come per molte altre persone. Cioè voglio dire, parlando di una pandemia mondiale, investe la scena, investe la popolazione intera, non solo italica e europea, ma anche mondiale. E ti dico, di botto, stare lontano non solo dalle sale prove, ma anche dai tuoi affetti, che sono anche le persone che sono con te, è stato veramente duro. Cioè trovarsi di punto in bianco a non potersi neanche vedere per fare le prove, o magari non si può, cioè non si può suonare, va bene, lo metti in contatto un attimo, però quel giorno è stato lungo, sono stati 16 mesi veramente pesanti. Poi posso dire, nel mio specifico, io non ho smesso mai di lavorare, quindi turni di lavoro peggiorati, perché comunque certo. Lavoro per un'azienda collegata all'alimentare, quindi quando la gente mi ha chiesto, certo. Ormai, ecco, il tutti si fermavano, meno che certo. Ti sei, capito, ti sei riposato? No, ma de che, cioè, io ho lavorato sempre con le condizioni che uno si può immaginare, allo sbaraglio, mascherine, ma uguali a prima, ma molto certo. Peggio di prima. Dico uguali a prima, ma molto peggio di prima. Certo, perché le condizioni di lavoro sono peggiori, se non a aumentate le ore. Quindi ecco, quella cosa, quella scintilla che ti salvava, che magari era le prove settimanali, vedere i tuoi compagni, uscire nel weekend, fare qualche tour d'estate, è venuto a mancare. ci si è messo un po' per pensarlo, ma alla lunga è stato veramente, veramente tosto. Ecco, senza fare vittimismo, ci mancherebbe, perché voglio dire, come si dice, l'importante è la salute, per carità, però è stato. Sono stati 16 mesi veramente bui, dove per fortuna piano piano si incomincia a intravedere la luce, ancora più farraginosa, perché dopo un anno di stop è pure strano sentirsi dire oh, domani suoni e non ti immagini più che cos'è l'odore del legno di un palco, della birra, e vedere i visi delle persone, dei tuoi amici, dei tuoi compagni, delle persone che ti stanno accanto dal vivo, sempre con la paura, ci salutiamo, ci tocchiamo il gomito, ci diamo la mano, non si sa, il caos, però mezzo incubo, piccole insomma. Cose ritorneremo, insomma, piano piano, più forti di prima no, non credo, perché siamo vecchi e stagionati, ma sempre sul pezzo, quello ci si prova. Senti, dai. Ma in questo stop forzato, in questa pausa per forza di cose, avete avuto almeno il tempo, insomma, e la calma per poter riflettere poi in realtà e pensare il gruppo, ai progetti, a quando se ne uscirà, eccetera? C'è stato questo pensiero, oppure appunto si è vissuto con questa bolla da incubo in cui non si uscirà? Cioè, come l'avete presa poi in fondo? Guarda, come gruppo, per fortuna, dico? Abbiamo come gruppo NAID, abbiamo tentato di prenderla, diciamo, vedendo sempre il bicchiere mezzo pieno, nel senso nel senso, non è che non ci siamo più visti dal primo lockdown, abbiamo ripreso a fare le prove l'estate del 2020, abbiamo rismesso a ottobre, abbiamo ricominciato a febbraio, quindi cioè come è stato possibile una piccola apertura, si riapre le prove, ci siamo fiondati dentro, e vedendo bicchiere mezzo vuoto abbiamo detto non possiamo suonare dal vivo per un bel po', ma comunque il gruppo resta vivo facendo uscire dei dischi, perché voglio dire, anche quella è una parte fondamentale della vita di una band, cioè una band suona e fa uscire dischi. Quindi la cosa più strana, che può sembrare strana, è che il 2020 è stato l'anno in cui sono usciti più nostri dischi, ovvero la discografia, che vabbè, può sembrare, diciamo, spesso le discografie puzzano di cimitero, per fortuna non è il nostro caso, era semplicemente una doppio CD dove abbiamo ristampato i nostri quasi 65 brani, che per carità non stiamo a livelli degli Agatocles, però molti dischi erano esauriti da anni, molti amici ci chiedevano dove rimediarli, dove poterli trovare, e a forza di dire guarda, questo disco è esaurito, quest'altro è terminato, abbiamo deciso di fare quest'altro, più un paio di split con un gruppo argentino usciti per un'etichetta francese, sia su tape sia su CD, e la ristampa di un live di qualche anno fa registrato abbastanza recentemente a Mosca, uscita per Olivia Record. Quindi ecco, l'attività del gruppo non si è fermata mai. Avete rimanipolato e ripescato un po' il materiale che già ci avevate, sì, ridandogli certo. In qualche maniera organizzazione e presentabilità, certo, ecco. Per far uscire dischi, ma magari anche non inediti, perché poi il discorso è sempre quello: se non puoi provare, non puoi manco vederti per registrare brani nuovi, anche se uno poi nel 2021 l'abbiamo registrato, ecco, però anche lì è un work in progress, che quantomeno ci ha aiutato a digerire sta dolorosa pillola, cioè il fatto dell'inattività, abbiamo tentato di viverla diciamo meglio possibile, quantomeno, quindi ecco, continuando a sfornare dischetti, news, nell'attesa di tornare presto a cantare un pacco, come è successo finalmente un mesetto fa al Traffic Beat Roma. Oh, bene. Senti, ma parlando, forse accennavi alla cover dei Caraco, V per il cambiamento, sì. Accennavi a questa, sì, cosa, sì. Quando hai detto abbiamo fatto uscire, ci sembrava il modo più bello di ricordare la nostra cara sorella Claudia, perché che suonava lei come noi suonava, e penso non ci può essere miglior tributo per averla sempre con noi, per ricordarla sempre. L'idea ci è sembrata spontanea, anzi, se posso dire la verità, cioè mi fa caso che siamo stati non i primi, magari, cioè sembrava una cosa normale, magari rendere pubblici i pezzi di Claudia, rifarla ascoltare, usare questo piccolo moto che Claudia urla ancora. Noi abbiamo contattato il suo gruppo, i Craco, qualche tempo dopo la tragedia, hanno capito il nostro punto di vista e loro sono stati entusiasti. Quindi non perché ci abbiamo pensato noi, ci mancherebbe, però ci hanno fatto notare, guardate ragazzi, se lo farete è una cosa molto bella. Anche il brano scelto è abbastanza strascicato. Forse uno dei brani più lunghi che avete, essendo una cover, forse uno dei brani più lunghi che avete fatto, stavamo commentando. Già, perché voglio dire, rifacendo Grand Core, ecco, i pezzi sono abbastanza corti, già arrivi al minuto e mezzo, sei stanco, è già grasso che cola. Nel caso della cover dei Caraco abbiamo appositamente scelto questa più lunga, diversa dai canoni del genere che suoniamo, più strascicata, più noise, più, per se mi passo il termine, più Claudia, era un pezzo suo. Certo. Quindi devo dire, è un'iniziativa che fortemente è piaciuta anche a noi, insomma, in primis, perché, ripeto, ci sembrava il minimo per ricordare la nostra sempre cara sorella. Sì, ci affratelliamo, diciamo, ci uniamo a questo vostro accorato ricordo. Claudia, che anche abbiamo ricordata qui un paio di puntate speciali, una qua in radio, è stato un excursus particolare. Ora che, diciamo, ci stanno questi spiragli di riapertura, si sta lentamente rimettendo un po' in moto tutto il circo dei circuiti underground, anche dei centri sociali, degli spazi occupati, eccetera. Avete già cominciato a prendere dei contatti, dei progetti, delle storie da fare nuove già in quest'estate? Sì, fortunatamente abbiamo già un luglio già, diciamo, mezzo pieno di date segnate. Mi sembra, allora, il 3 luglio saremo alla Villa Vegan di Milano per i 23 anni di occupazione del suddetto squat, che saranno una giorni di gruppi hardcore craft e presentazioni varie nel pomeriggio. Il 10 saremo a Napoli a Villa Pola, il 31 luglio al Pannone Hardcore, il leggendario festival rovereano che torna dopo tanto tempo, diciamo, tendo a precisarlo sempre, benefit per i detenuti. E qualche altra data a settembre, perché ecco, agosto è sempre un po', vabbè, certo, è sempre, per suonare in Italia è sempre stato un mese un po' strano, chi c'ha le ferie, chi di che va via, quindi figurati sotto una pandemia. Quindi ecco, mentre per settembre dovremmo confermare al 90% una data al Perlanera di Alessandria e al Pescara Hardcore Fest. Va bene, aggiungo una cosa, alcune di queste date alcune di queste date ci sarà pure la presentazione di un libro che ho scritto con la mia compagna. E dai. A proposito, durante l'ultima pandemia, si chiama Schegge di Rumore, storie di hardcore italiano negli anni 90, che parla un po' di quell'hardcore di cui non, diciamo, si è parlato sempre per poco, nel senso, gli anni 80 assolutamente fondamentali per noi, sì. Ma parliamo di gruppi come Negazione, come Vrecet, ne raccontati in mille parti, su fanzine, libri, anche dischi, ristampe, ma anni 90 di cui si trova scarsa conoscenza, scarse informazioni, e pensando di hardcore italiano, se almeno quello che ho pensato io e la mia compagna, se si pensa a band come Contrasto, Affluente, certo, Bagel Mitz, gli stessi Termi Down dove ho militato per 12 anni, io penso che no, l'Italia power abbia dato qualcosa. Quindi ecco, abbiamo scritto questo libro che dove diciamo intervistiamo una quindicina di persone che ha vissuto quel periodo suonando e tentando di tirare un agio quegli anni dimenticati, far emergere, quindi, ecco, il taciuto, insomma. Sì, ecco, quindi ecco, oltre ai concerti inediti, nel pomeriggio ci dovrebbe stare anche qualche presentazione, insomma, quindi abbiamo unito l'utile e il dilettevole, anche perché, voglio dire, fra compagni i posti sono quelli, e noi non chiedevamo altro che suonare in situazioni liberate, occupate, certo, poi vada pure per il locale, ci mancherebbe. Così, ecco, un'ultima domanda un po' generica su Viterbo. Viterbo pure si sta risvegliando? Ma guarda, Viterbo, allora, la scena hardcore fortunatamente in questi quasi 30 anni di scena, insomma, diciamo dell'apparizione del punk hardcore nelle terre di Tuscia, c'è stata una graduale e lenta ripresa, diciamo un bel ricambio generazionale. Certo, la pandemia in corso non aiuta, infatti ovviamente, come puoi immaginarti, il Tuscia Hardcore Fest del 2020 non è saltato, così come le iniziative degli ragazzi della cantina del Goio di Vedralla sono sospese in attesa. Viterbo città è sempre stato sonnacchioso. No, Viterbo tagliato, inteso Viterbo era inteso nel senso di Tuscia, in senso lato. Insomma. Ah, ok, certo. Beh, guarda, io proprio sto a Viterbo città, ma quello che dico di Viterbo vale anche per la sua provincia. Sempre stato una zona d'Italia abbastanza tagliata fuori dai grandi, diciamo, passaggi commerciali. Basta vedere le arterie principali, cioè attraversa da un lato da l'Aurelia e dall'altra da la 1 con Viterbo in mezzo, e questo a causa anche di un isolamento che soprattutto nel dopoguerra ha gettato le basi per quella, posso spiegare, quella fetta di popolazione reazionaria, feudo androttiano, che tra l'altro Viterbo negli anni 70-80 fino agli anni 90, fino alla caduta della DC, un posto dove comunque le cose anche a livello culturale hanno sempre faticato a partire, sia per mancanza di soldi sia per mancanza di interessi. È chiaro che un turista arrivando a Viterbo non trovando infrastrutture, ma magari preferisce Siena un'ora dopo di auto, ma voglio dire, ho fatto il caso di Siena, ma parlando di bellezze architettoniche, non perché sono di parte, ma Viterbo non ha nulla a che invidiare, insomma, a queste città, un antichissimo borgo etrusco preromano, nonché città medievale da valorizzare, come tutti i borghi delle città dimenticate d'Italia. Quindi ecco, anche qui la ripresa è un po' lunga, insomma, quelli, come si dice, in provincia ci vuole un po' di più, ma speriamo di farcela. Poi quando partite bene, insomma, visto poi i risultati. Senti, va bene, se non hai saluti o altre cose da aggiungere, io ti lascerei qui e mandiamo la cover di Carago che si chiama V per il cambiamento, e sottotitolo La fine non è la fine, è un po' emblematica, insomma, perché tutto sommato. Certo, Fevo. Guarda, io ne approfitto intanto per ringraziarti per la bella proposta e la squisita chiacchierata. Un saluto anche a Dario lì, vecchio amicone con cui purtroppo ultimamente ci si becca di innerato, ma voglio dire, il pensiero c'è sempre. Quindi ecco, lasciamoci con il ricordo della nostra camera Claudia che resterà a urlare per noi. Va bene. Sempre. Ok. Assolutamente. Un saluto e un abbraccio. Grazie a te e a risentirci, dai. A prestissimo. Ciao. E un bocca al lupo per prendere tutto. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ovviamente quando producete vi aspettiamo qua, Assolutamente, quando ripassiamo a Roma non saprei, perché dovremmo recuperare una data allo strike e poi magari passa qualche tempo, ma come ricapitiamo saremo lieti di farvi sapere e di dare nuovo materiale, insomma. Benissimo, amico da Dario, ok? Grazie, ciao Gabo. Grazie ancora, a presto. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ed eccola qua, cover dei Caraco, V per cambiamento. sostanza, percorro la distanza, l'infinità. Il mio corpo celeste rompe con la noia, opta per vuoto, migra l'estensione, non occupa lo spazio, si estende per sostanza, percorre la distanza, l'infinità. Il mio corpo celeste rompe con la noia, opta per il vuoto, migra l'estensione, non occupa lo spazio, si estende per sostanza, riempie questa stanza, l'infinità. Allora, ci siamo ritornati in diretta per l'ultima parte di 25 O'Clock. In diretta dalla Tenda Rossa, 0649170, recapito telefonico della radio. Mi sembra che era il numero 3 il microfono, proviamolo un attimo di nuovo. Eccolo, ecco, questa è la frasetta d'obbligo per provare il microfono. Allora, abbiamo fatto veramente un salto acrobatico con tripla capriola mortale in termini di sonorità. Siamo finalmente con Cobol Pongite, che sta taciuto, ma ha sentito, ha ascoltato tutta la trasmissione e ha anche partecipato. E ovviamente, insomma, le domande già le sai, perché praticamente le abbiamo fatte, ne abbiamo parlato prima. E essenzialmente, appunto, poi... avevamo anche cercato così poi finalmente di liberare in qualche misura il nostro intimo, no? La nostra quel che abbiamo vissuto e raccontarcelo nuovamente. La radio lo ha fatto in diretta, diciamo, noi siamo un po' mancati come spazio a questo tipo di discorso qua, forse volontariamente, cioè ce ne siamo sottratti anche per così un disagio che abbiamo vissuto già dal primo minuto, anche prima che cominciasse tutta questa faccenda. Ognuno, ovviamente, ciascuno e ciascuna di noi lo declina nel suo vissuto, insomma, particolare, come l'ha presa, essenzialmente, presa bene, presa male, presa così così. Insomma, cosa è successo? Ciao. Ma allora sì, ne parlavamo pure prima, in realtà in parte è successo quello che anche abbiamo sentito essere successo a tutti e tutti i componenti che abbiamo, delle band che abbiamo sentito prima. E, no, mi piace la cosa che dicevi tu rispetto alla narrazione, perché di fatto c'è una difficoltà narrativa rispetto a quanto sta accadendo, perché si vive in quella zona grigia tra il dover in qualche modo accettare per poca comprensione di quello che sta accadendo, le regole che vengono imposte, che non sono sempre, anzi quasi mai, razionali, ma fanno più parte di un sistema di dominio che non di prevenzione e di cura, e quindi doverle accettare, e dall'altra invece dover maturare l'idea che esista anche una narrazione alternativa che non sia necessariamente quella che ripete all'infinito la situazione com'è e che la racconta così come viene continuamente passata, così da confermarla. Certo, quindi c'è sicuramente un problema di originalità della narrazione, cioè non c'è una narrazione originale rispetto a quanto sta accadendo, siamo tutti all'interno della stessa dello stesso racconto distopico, no? Lo dicevamo prima con Fefo qui in modo confidenziale, in qualche modo informale, dicendoci che in realtà sì, negli anni Ottanta la distopia è stata un interessante racconto controculturale, narrazione controculturale rispetto all'euforia e all'ottimismo un po' insensato di quegli anni col cyberpunk. Oggi viviamo dentro una distopia, per cui fare critica attraverso il racconto distopico è una contraddizione in sé. Bisognerebbe assolutamente invece recuperare la dimensione, quella utopica, quella del racconto, che va ben oltre e che va già oltre la costruzione di una società di una società altra, proprio a partire da una distopia che è tangibile, che ha uno spessore ormai sensibile in tutte le direzioni, in qualsiasi direzione ci si gira c'è una distopia. Quindi questa forse è la mia... semplicemente per un fatto di velocità, cioè tutti quei processi, ma anche da questa radio si dice, tutti quei processi che più o meno erano in atto hanno subito una enorme accelerazione che li ha resi tangibili, visibili sulla pelle, insomma, assolutamente sensibili ai nostri nervi, ai nostri, e al nostro modo di esistere. Sì, sì, sono diventati epidermici e questo ci spinge, ci dà il, ci pone nella necessità di dover quanto prima cominciare a immaginare narrazioni alternative. Quindi questa è la mia personale battaglia, ma da quello che ho capito un po' anche la tua in questo momento, contro la distopia intesa come narrazione dominante del periodo e del momento. Dobbiamo riappropriarci sicuramente dell'utopia, non dell'utopia quella ovviamente rinascimentale, illuminista, ma di un'utopia che sia quella della costruzione di un mondo diverso, perché probabilmente il peggio di questo mondo, chi più, in maniera un po' meno forte, chi in maniera più forte, lo stiamo vedendo, cioè la violenza neoliberista che si poggia su una, fondamentalmente su una emergenza che è poco comprensibile e che in parte racchiude processi di creazione di dominio, no? Sì. Nuovi processi di controllo, nuovi processi una di riorganizzazione, certo, una riorganizzazione su basi nuove che poi sono quelle vecchie, che approfondisce. Tu dicevi accelerazione, quindi sì, accelerazione anche nella narrazione alternativa in questo. Certo. O comunque sì, è necessario. Dunque, quando parliamo di Gobbo il Pongite parliamo di un personaggio ti piace come... Sì, vabbè. Di una persona, dai. Diamo la dignità della persona. Estremamente poliedrica, cioè capace di saper produrre anche appunto in questa bolla, in questo periodo di assenza, invece un gran numero di iniziative, di proposte, di agitazione come al solito fai, è venuto, ci ha portato una marea di roba che comunque più o meno hai realizzato in questo anno. Sì, in questo anno e mezzo. Quindi sì. Non ti sei stato affatto con le mani in mano e fermo. E ci vuoi un po' raccontare di questo? Tra l'altro, appunto, dicevamo, quindi scrittore, saggista e musicista, senz'altro, elencando così grossolanamente, nonché conduttore radiofonico, perché in questo periodo sei stato dai cuginetti del sabato sera, pomeriggio dai d'estate, si può dire. Sì, sono stato ospitato a curare una vecchia passione, che è poi comunque una vecchia tematica, che è quella dell'ufociclismo. Esatto. A cui abbiamo bucato praticamente in questo anno di rinchiudersi nel proprio ego, in qualche misura abbiamo mancato di condividere purtroppo le vicende. Vabbè, raccontaci un po' quanto hai prodotto nella veste di, diciamo, co-conduttore insieme ai disaccordi compagni che mi hanno ospitato in 5 puntate, più anche in realtà di tematiche di approfondimento dell'ufociclismo, quindi a disaccordo del sabato pomeriggio, Marco e Chris, che saluto, e sì, con cui abbiamo in realtà intrapreso già da quest'inverno un discorso di tendenzialmente proprio di ricrescita e di rinascita del rapporto con lo spazio pubblico. Cioè, l'ufociclismo fondamentalmente è questo, è un metodo alternativo di mappatura del territorio mediante bicicletta, fatto collettivamente, fatto collegialmente. In realtà in rete si trovano i nostri rapporti, si trova il nostro metodo di cartografia, che è un metodo politico, cioè un modo di guardare al territorio in maniera completamente diversa, resettare quella che è la stratigrafia tipicamente classica per quanto riguarda le città, addirittura urbanistica sulle città, così da poter rendere lo spazio di nuovo libero per una ridescrizione, no? Per una rimappatura, per una mappatura alternativa su alcune basi oggettive, tra virgolette, scientifiche, che prendono tra l'altro così si ispirano alla psicogeografia degli anni 50-60 per poi recuperarla. Sì, con loro abbiamo approfondito questo tema perché ci sembrava interessante, intanto come sempre il discorso sulla bicicletta, ma anche il discorso proprio sulla riappropriazione dello spazio, perché è lo spazio pubblico fondamentalmente che ci è stato sottratto. Se tu mi avessi fatto la domanda che hai fatto a tutti gli altri ospiti, compagni, che me l'hai fatta, allora, beh, come ho vissuto questo anno e mezzo? Io devo dire che è stata secondo me una grande prova generale per la nostra vita all'interno del nostro personale supporto vitale, no? Il supporto vitale è quell'insieme di oggetti e di proprietà che appartengono a chi fortunatamente, che in modo fortunato viaggia al di fuori della biosfera terrestre, quindi ai cosmonauti, gli astronauti, no? Vivono dentro loro, che è la tuta spaziale, fondamentalmente l'abitacolo che li protegge al di fuori della biosfera terrestre. Beh, questa, diciamo, questo abitacolo noi lo stiamo testando, lo stiamo misurando sempre di più anche sul pianeta Terra, quindi siamo sempre più chiusi all'interno di una dimensione domestica in cui noi non dobbiamo uscire nello spazio, perché lo spazio pubblico è appunto come lo spazio extraterrestre alieno, ostile. Tutto ci viene portato a casa, tutto ci viene fornito, proprio come tutto ci è fornito all'interno del supporto vitale. E quindi il supporto vitale, diciamo, questa pandemia come grande metafora o prova generale, qui fermo restando, come dicevamo prima, che, come diceva pure Capo Deinei ed Andrea, che appunto poi tutto sommato lui invece è dovuto andare a lavorare tutto l'anno perché lavorando nel comparto della distribuzione alimentare non poteva farne altrimenti, perché diventa, non c'è ancora una sostituzione, cioè da questo punto di vista, diciamo, ancora le strutture economiche non erano pronte a totalizzare questo processo. No, però noi anche a sinistra si parla molto di totale automazione, no? In qualche modo la totale automazione sarà anche questo, sarà anche la conclusione di questo processo che appunto ci porterà a richiuderci totalmente all'interno del nostro supporto vitale per poi poter essere definitivamente sparati. Fermo restando che potrebbero esistere delle sottospecie, come si dice, no? Cioè nell'ambito delle classi magari ci potrebbero Ma non sono mai processi così ovviamente così totalizzati e totalitari, no. Cioè proprio teorizzare invece una sottospecie che è quella che invece è costretta a uscire di casa, diciamo, in cui il costretto a uscire di casa diventa quasi al contrario. Assolutamente. Una virtù, ma è un... Tu che sei amante della fantascienza, ce ne sono tanti di buoni esempi, ma c'è l'esercito delle scimmie, la parte iniziale con Bruce Willis, in cui nel futuro sono tutti sottoterra, devono vivere nel loro supporto vitale sotterraneo, però ogni tanto qualcuno di loro viene chiuso dentro una tuta in PVC e mandato all'esterno, dove il mondo è stato ripreso dagli animali e da agenti atmosferici ostili non ben identificati, in cui loro devono raccogliere campioni. No, ci sarà sempre gente munita di scafandro che potrà accedere allo spazio pubblico, però fondamentalmente è lo spazio privato, ma questo è un processo iniziato ormai da centinaia di anni. Lo spazio privato è quello in cui noi veniamo sempre più relegati e marginalizzati. Questo non semplicemente per una questione di dominio, per quello che mi riguarda, per quello che io penso, ma come tu sai bene, ne abbiamo fatto un'intera trasmissione di due ore qualche anno fa, perché io credo che oggi le priorità del capitalismo, del neoliberismo, siano quelle della space economy, quindi di mandarci nello spazio, e quindi per questo prova generale, nel senso che ci stiamo abituando sempre di più a vivere di quegli elementi che ci mantengono in vita, inscatolati, chiusi all'interno di una bolla, e che ci vengono filtrati e ci vengono proposti ad hoc per mantenerci in vita in un ambiente ostile, che esso sia un ambiente realmente ostile perché ci sono i raggi cosmici o perché non c'è l'ossigeno con lo spazio extra atmosferico, che sia lo spazio pubblico terrestre infestato da più o meno reali batteri, virus e nemici più o meno immaginari. Ecco, questa insomma è un po' la tendenza che io vedo, e quindi ecco come ho vissuto io questo periodo. L'ho visto come una prova generale, un po' una conferma di quanto vado sostenendo, quanto abbiamo sostenuto anche con te un po' di tempo fa, insomma, di quanto ci sostengono anche tante altre persone. Benissimo. Come traduci invece poi nell'altra tua facciata poliedrica questa perché appunto è un complesso di idee, in realtà non sempre tutte collimano, non sempre tutte si adeguano l'una all'altra, sono tanti aspetti. Comunque con la tua produzione invece musicale, perché hai fatto uscire un disco. Sì, no, in questo caso è molto compatibile, devo dire, anzi io faccio sempre dischi sullo spazio, sempre sul cosmo, quindi fondamentalmente torno a ragionare sempre più o meno sugli stessi argomenti, da varie forse angolature, diciamo, collaborazioni. No, in questo disco Estremofilia Cosmica Operaia ho immaginato un ritorno nel futuro a brevissimo della cosiddetta industrializzazione pesante, quindi dell'industria estrattivista, e quindi di una nuova classe operaia che si formerà non più quindi sul pianeta Terra, ma che sarà questa forza lavoro che verrà utilizzata nello spazio extratmosferico, che è un po' pure un tema di Marte oltre Marte, che è un po' il tema di Marte oltre Marte, sicuramente del libro che scrissi per Deriva Prodi nel 17 a questo punto, e che è un po' la prospettiva che dicevo anche prima, insomma un po' di questo accesso economico dei privati allo spazio che ci porterà come capitalismo neoliberista nello spazio. E quindi questa classe operaia che vivrà nello spazio facendo soprattutto estrattivismo minerali nobili, ma anche di gas, ma anche di acqua, perché insomma nel nostro sistema solare stiamo scoprendo che il nostro sistema solare è pieno di acqua, di idrogeno nello spazio. L'idrogeno è uno degli elementi, forse l'elemento più comune nello spazio, ecco, di tutto ciò che è reperibile nello spazio, ora che la cosiddetta velocità di fuga sta per essere economizzata grazie alle tecnologie di Elon Musk e di Jeff Bezos, gli imprenditori spaziali. Sono continuati i lanci in questo assolutamente periodo, non solo, ma la pandemia non influisce sicuramente. No, assolutamente non solo, ma Elon Musk si è aggiudicato tutta la fornitura dei prossimi razzi NASA con il suo SN15. È uno di quei miliardari che ha è uno di quelli tra l'altro che in questo periodo ha decuplicato i profitti, assolutamente, e adesso sarà lui nei prossimi anni a costruire i razzi per la NASA, quindi insomma diciamo un appalto non da poco. E quindi questa classe operaia immaginata nello spazio sarà una classe operaia estremofila. Perché? Perché già oggi i genetisti stanno lavorando alla commistione del DNA umano con quello degli organismi estremofili, tipo il famosissimo tardigrada, no? il microorganismo capace di vivere al di fuori della, che nasce sul pianeta Terra ma poi riesce insieme ad altri batteri terrestri riesce a vivere in condizioni extraterrestri, quindi al di fuori della biosfera. E quindi molti genetisti stanno lavorando proprio a questo progetto per migliorare quello che dicono essere, loro dicono chiaramente per migliorare la tenuta del DNA umano anche in previsione degli effetti nefasti dell'antropocene. Però in realtà, guarda caso, sono tutti esperimenti che lavorano proprio nella direzione di quegli organismi che già qui sulla Terra oggi sono adatti a vivere nello spazio, tipo i tardigrada. Quindi sarà una classe operaia estremofila che io immagino appunto operante all'interno del settore dell'industria in realtà del supporto vitale, cioè quindi si estrarrà su asteroidi, si manderanno i prodotti sulla Terra, verranno ritrattati e il trattamento finale, il prodotto finito verrà in qualche modo rispedito nelle colonie extraterrestri proprio agli stessi lavoratori come supporto vitale. In questo senso il supporto vitale è proprio questo elemento impacchettato, questo kit vitale impacchettato che viene poi spedito e viene dato in dotazione a coloro che vivono in condizioni al di fuori della biosfera terrestre. E quindi nel disco ho immaginato la creazione di un contropotere, quindi di una classe operaia che si organizza in un contropotere, un po' come è stato tra gli anni 60 e gli anni 70 l'autonomia, per esempio le assemblee autonome, e quindi la nascita dell'autonomia operaia, di potere operaio, in questa estremofilia cosmica e operaia. Quindi diciamo la storia di un contropotere spaziale all'interno della nascente space economy. Ovviamente il disco non è tutto compattamente su questo, però prevalentemente si parla di questo. Però tutto questo che hai detto può essere sintetizzato in una traccia particolare? Guarda, è un disco molto cantato. Io mi piacerebbe farti sentire a questo punto la traccia 13, con un pacco opinioni sul lato oscuro della luna, perché forse era in qualche modo sintetizza un po' tutto il discorso che abbiamo fatto prima sulla bicicletta, visto che il pacco opinioni è un pezzo importantissimo della bicicletta, e sulla luna, perché la luna sarà il prossimo di nuovo territorio, il primo territorio da colonizzare in maniera permanente, proprio per poi spingersi oltre verso Marte. Benissimo, allora andiamo con la 13ª traccia. We'll be right back. progetto cosmutopico langue. Almeno quanto la capacità di renderti felice. Intanto il capitalismo spaziale si espande. Nonostante io lo respinga, con l'azione diretta delle più divelle. Mi sono innamorato, guardandoti sgranare il bordo dentato d'un pacco pignoni come fosse un rosario, rimuovendo gli accumuli di sporco e di grasso, neanche fossero pepite d'oro, artefatti alieni, cariche elettriche, decadimenti atomici, felici sacri, rebus carnali, onde quadri, andromalis, tastierine giocattolo, saurischi, ornidischi, diorami. Perdendoci la Cina che atterrava sul lato oscuro della luna. Mi hai strappato un sorriso con lo sgrassatore quasar per far risplendere la stanza come una pulsar. Questo tuo essere tanto diretta mi fa pensare che potresti smarrirti in qualche giro di parole. In fondo si tratta solo di rallentare e stare a guardare che piega prendono le cose. Ok, di nuovo in diretta 23 minuti dopo la mezzanotte dagli studi della radio con Cobol Pongide. Allora, commentavamo un poco anche i suoni rispetto alle uscite precedenti, quindi hai avuto modo comunque di lavorare su questi suoni e sulle tematiche, oltre che sui suoni ovviamente, in questo periodo. E lo commentavamo prima dicendo che Cobol è uscito dalla sua infanzia per entrare in qualche maniera in una meravigliosa adolescenza, meravigliata adolescenza. Mi piace, sì, bello. Potrebbe essere questo, forse così è troppo tagliata con l'accetta. E senza scendere in troppi tecnicismi, o volendo anche scendendoci, però diciamo sapendo poi che andremo a parlare solamente agli addetti ai lavori, come si sviluppa questo suono e questa mutazione, questa maturazione, no, dai, questa crescita, questo mutamento. Sì, ma in realtà io sono appassionato di tastierine giocattolo, soprattutto anni 80, di Commodore 64, console di gioco anni 80. Derivo, cioè diciamo il mio primo disco è sicuramente un disco 8 bit micro musicale fatto tutto con giocattoli. E in realtà questa caratteristica del mio suono era molto caratterizzato dal fatto che, avendo tante tastierine giocattoli, avendo il grillo parlante a casa, avendo il Commodore 64, il Game Boy, tutti questi giocattoletti anni 80 molto divertenti, io in ogni disco ce li volevo mettere tutti, e quindi i miei dischi erano sempre molto orchestrali, diciamo tra virgolette, cioè nel senso c'erano sempre molti piani sonori, anche i messaggi erano sempre molto complessi, perché volevo far stare sempre insieme tanti suoni, il suonetto della Bontempi con quello della Casio, con quello della tastierina giapponese rimediata nel mercato rom, che cercavo tanto e che finalmente ho trovato. Questo disco, ecco, diciamo, questa forte tensione l'ho esaurita in due più dischi. In realtà io mi riferisco ai due dischi stampati più tanti, più altri 3-4 dischi che ho fatto in formato solo elettronico. L'ho un po' esaurita, nel senso che anche questo disco è pieno di giocattoli, come avete, come hai sentito, come hanno detto anche chi ci ascolta. O comunque il modo di suonare è quello, insomma. Sì, sì, sì, il modo continua a essere quello. Però ho preferito, ho cominciato ad adottare un suono un po' più frontale, che poi è anche dovuto al fatto che ho cambiato modo di suonare live. Io fino a due anni e mezzo fa facevo dei live che erano solo esclusivamente strumentali, invece adesso ho messo a lato tutta la strumentazione. Ho una Keytar, cioè una chitarra, una tastiera a tracolla tipo chitarra, con cui suono via MIDI un Commodore 64, e un rapporto col pubblico più frontale, come con un microfono davanti, come una specie di rock band elettronica fondamentalmente. E quindi sì, diciamo, il suono diventa un po' più frontale, e quindi nel disco ho cercato di portare questa vocazione, cioè quello a fare un disco, a quello a fare un suono un po' più frontale, un po' più, anche perché la tematica lo richiedeva. Gli altri dischi erano un po' più sognanti, un po' più eterei, onirici. Sì, onirici, assolutamente. Vita da spaziale, il penultimo, era la storia di un bambino che gioca negli stessi parchi gioco dove si allenano i cosmonauti sovietici degli anni 70-80, quindi insomma erano tutti un po' sogni, come dici giustamente, un po' onirici. Qui in realtà ho voluto affrontare una tematica più politica, più esplicitamente politica, che era appunto quella dell'autonomia, sperimentare insomma linguaggi comunicativi che esulano da quelli del saggio, che magari non tutti leggono, che magari sì. Occorre avere la pazienza di leggere. Invece, certo, così uno fa, diciamo, è un po' il gioco della musica in generale, insomma. Sì, sì, sì, tu dicevi all'inizio, poi è un po' tensione di chiunque fa un po' quello che faccio io, quello di esprimersi, cercare di esprimersi su più campi possibili, modalità diverse, anche esprimere punti di vista diversi. Qui c'è stata sicuramente rispetto agli altri dischi un convergere rispetto alla scelta proprio di immaginare quello che dicevo prima, no? Cioè uscire fuori dalla distopia immaginando un'alternativa, un contropotere, immaginarlo nello spazio, perché per me è più facile immaginarlo nello spazio che su questo pianeta, immaginarlo quindi nel cosmo, riallacciarmi ai miei vecchi temi del cosmismo, dei cosmonauti, tutte cose che ho trattato negli anni e che convergono dentro il disco in una maniera un po' più esplicitamente politica, proprio perché in questo periodo ho sentito, mentre negli altri, diciamo anche prima, lo diciamo io così, tra me e te, insomma, non è che prima della pandemia fosse un bel periodo, però in qualche modo, no, ci eravamo abituati a una sorta di routine, di sempre identico, e quindi forse anche c'era meno l'urgenza di raccontare, perché è un po' venuta anche meno in tutto, secondo me, un po' in tutto il movimento antagonista, un po' l'esigenza di cercare di immaginare in maniera centralizzata un mondo nuovo, un mondo diverso. Questa urgenza, secondo me, oggi si ripropone, cioè l'idea anche di far convergere più piani, più spessori e più piani comunicativi diversi anche verso un unico progetto e non più verso i milioni di eterotopie che ognuno si costruisce nella propria testa o nel proprio piccolo orto, e quindi più un discorso centralizzato sull'idea di costruire un'alternativa possibile in cui tutte le differenze possano stare dentro e ci possano stare, rinunciando a quel poco, senza snaturarsi, che le faccia convivere bene con altre differenze, ovviamente tenendo fermi certi paletti che per noi sono fondamentali, che sono l'antifascismo, l'antisessismo, l'antirassismo, per me anche l'antispecismo. E quindi trasformare questo in una sorta di idea, questo progetto politico, una sorta di idea musicale, assolutamente, proiettata nel futuro, perché come dicevo, io fatico un po' a solo a guardare tanto a guardare il passato, molto a guardare, abbastanza a guardare il presente. Mi piace buttare un occhio su quello che verrà, perché questo lo dicevi prima tu, sul presente quello che possiamo fare è mettere pezze, mettere una pezza qui e mettere una pezza lì. Se qualcosa possiamo farlo è sui processi in divenire, non sicuramente i processi divenuti, i processi divenuti li possiamo, possiamo cercare di governarli in parte. I processi in divenire invece, quelli che ci stanno soverchiando ma che sono ancora immaturi, forse li possiamo intercettare ad un certo punto. Ti faccio sbilanciare in tempi di quanto è recente questo futuro? Guarda, questo futuro è tutt'altro che poco recente, nel senso che le trasformazioni, allora il sistema di produzione capitalistico è un sistema di produzione che di sua natura è che continua espansione. Cioè, almeno per 60 anni si è espanso nelle nostre teste, perché la terra l'aveva conquistata tutta e quindi ha dovuto produrre questo meccanismo di continuo ripristino del desiderio, no? della distruzione psichica della merce appena acquistata per creare, certo, il desiderio di una merce nuova l'attimo dopo era stato. Processi di accelerazione si basava sull'accelerazione dei processi di accumulazione, essenzialmente. Sì, però avveniva molto nella nostra psiche, proprio perché appunto in qualche modo i territori fisici, certo, del pianeta, certo, erano, certo, stati già, certo, tutti conquistati, certo, si erano stati, certo, mondializzati, c'era stata la globalizzazione. O comunque sì, anche quella è una percezione, poi questa cosa non è vera, però almeno secondo me. Sì, no, ma è chiaro, senso... però diciamo che esista una sorta di è un po' più complicata, certo, ecco, assolutamente però insomma dato che tutto viaggia all'interno dei processi cognitivi, la cognizione è quella, cioè quella c'è che comunque hai addomesticato il territorio. Sì, esatto, sì, diciamo il territorio fisico è stato addomesticato e per 60 anni si è continuato a in qualche modo invadere in maniera ricorsiva quella che era la nostra psiche, appunto ripristinando, come dicevo prima, proprio il desiderio della merce, quindi non è semplicemente quello di cui tu hai bisogno, ma quello che desideri all'infinito. Però questa tendenza a espandersi geometricamente nello spazio non è mai cessata nel capitalismo, anzi è proprio un modo di produzione capitalistico, anzi è proprio un suo portato, cioè, fondamentale. Tutto il colonialismo si basa, esatto, il colonialismo, l'espansionismo in generale. E lo spazio fisico, spazio extraterrestre, quindi lo spazio extra, come si dice oggi, extra atmosferico, non è uno spazio diverso da quello terrestre, perché non lo era neanche l'oceano. Perché mentalmente non lo può essere. Non lo può essere, ma non so, ma proprio perché, ad esempio. Come approcciare lo spazio in questo regime di dominio culturale, di dominio non solo culturale, come cultura che viene dal dominio economico, insomma, in fondo. Come poter immaginare. Per il capitalismo qualcosa di diverso. Esatto, qualcosa di diverso proprio perché tutto sommato la terra è il suo regime, è il suo modo di sopravvivere, quello di espandersi. Come dicevo, lo spazio extraatmosferico non è uno spazio diverso dallo spazio fisico terrestre, quello del globo. E mancava solo la caravella. Mancava quel mezzo che rendesse in qualche modo attraversasse l'Atlantico. Esatto, appetibile e conveniente far diventare anche l'oceano un terreno di conquista. Nello spazio sta accadendo questo, nello spazio extraatmosferico sta accadendo questo, cioè sta accadendo proprio che quello che dicevo prima, cioè sta accadendo che il prezzo più diciamo oneroso dell'accesso allo spazio extraatmosferico, ovvero la velocità di fuga, quindi l'abbandono dei vettori, l'energia dei razzi, necessaria, esatto, per lasciare il nostro pianeta, sta venendo abbattuto grazie a nuove tecnologie che sono state immesse nel mercato aerospaziale dai privati. Oggi dovremmo dire che sicuramente saranno presentate come tecnologie ecocompatibili, sostenibili, no? assolutamente si viaggia andare nello spazio è più compatibile di prima, ma è anche vero, cioè fondamentalmente è anche vero, se non fosse che però poi esistono già ormai dei database che hanno mappato completamente quelli che sono gli asteroidi vicino al pianeta Terra, perché ed esistono missioni scientifiche tipo Rosetta che sono state utilizzate per sperimentare proprio l'asteroidaggio, cioè l'estrazione, l'estrattivismo, prima sugli asteroidi, poi sulla Luna e poi su altri pianeti un po' più esterni rispetto al sistema solare, quindi non è così lontano, è vicino. Però io, come ho cercato di dire, come cerco spesso di dire, questa è un po', ok, diciamo un po' una proiezione in avanti. Il punto è che noi cominciamo già oggi, e la pandemia è in questo senso una grande prova generale di questo, lo dicevo prima, no? Il supporto, sì, vitale, certo. Noi cominciamo a sperimentare oggi già quelli che sono. Prima che continui ti chiedo nel frattempo di lavorare il multitasking e pensare a quello che poi in disco dovremmo la 1. La 1, amico controllore fantascientifico. Ti dicevo, sì, praticamente il problema non è tanto poi quando andremo a vivere su Marte e quando andremo a vivere sulla Luna. È chiaro che in qualche modo inizialmente saranno corpi operai, forza lavoro molto specializzata che farà questo, a noi ci riguarderà in parte questa trasmigrazione fisica. Il problema sono gli effetti che già su oggi il capitalismo neoliberista spaziale e cosmico deve sperimentare qui sul nostro pianeta, proprio per allenarsi, proprio per iniziare a socializzarsi allo spazio. E quindi quelle che sono le trasformazioni sulla nostra pelle di quel modo, di quello specifico modo di produzione, di quello specifico ramo, di quella specifica declinazione del neoliberismo contemporaneo. Bene, se non avete capito nulla di quello che abbiamo detto fino adesso, ve lo riproponiamo in questa forma. Potevo anche suonarlo per rimanere al passo coi tormentati tempi. Ho imboccato in pavido una svolta radicale. Coi microcontrollori trivellano asteroidi, ma io ho progetti sonici fin troppo nella media. Un synth analogico, forse proto digitale. Ci ho messo comodo, certo, di atteggiarsi a spaziale, ma alla fine sono sincero, suona proprio come un rutto. Onda Rossa 87.9, 40 minuti dopo la mezzanotte. Si è finito per parlare di biciclette qua nel frattempo e di percorsi. Model car, model wife, model village. Model car, model wife, model village. Allora, in questo ultimo lavoro è anche tracciato un percorso, quindi in qualche misura, proprio perché parlavamo di percorsi, cioè una serie di tappe, la dico così, il disco non l'ho sentito, me l'hai portato ora, una serie di tappe di tappe intermedie per arrivare comunque a questa forma di autonomia nuova, oppure appunto ancora una volta c'è un salto nel tempo, cioè c'è una cesura fra l'attuale, che è vicino come dicevamo prima in realtà, e c'è una granularità in questi passaggi, oppure ci troviamo già catapultati come spesso succede in questo futuro prossimo? No, in realtà è una sorta di simulazione al presente di quello che dovrebbe essere. Poi, come dicevo, il disco non è completamente compatto. Ad esempio c'è un brano che parla del parasaurolofo, che è il mio dinosauro preferito. Erano anni che volevo fare un brano. Beh, quello è il classico Sassolino. Che riuscisse a parlare del parasaurolofo, che era. Parlacene. Il parasaurolofo era un bellissimo dinosauro con una bellissima cresta, in realtà un erbivoro. Questa cresta in realtà serviva per emettere un suono, un infrasuono. No, pensavo fosse il punk dei sauri. In realtà sì, c'ha questa cresta che sembra proprio un punk, in realtà questa cresta lindia è un po' come vedi uno schese. Hanno visto loro, sì, infatti in radio vedete come porti io i capelli. Vidi insomma un po' di anni fa questo documentario fantastico in cui c'era un paleontologo che spiegava come i parasaurolofo in realtà si mettessero tutti insieme, siccome erano degli erbivori, per in qualche modo evitare che i carnivori li attaccassero, sì. E mettessero a di mandria, insomma, come una mandria, naturale, come una mandria, esatto, sì. E rivolgessero i loro corni, le loro creste verso verso il carnivoro, il predatore, emettendo tutti insieme infrasuoni. Questi infrasuoni erano un'arma sonica, cioè in realtà producevano proprio una sorta di sconvolgimento disturbante al cranio e quindi poi anche al sistema nervoso ovviamente è un'ipotesi perché nessuno, certo, stava lì a fotografare e a riprendere, certo, questa cosa, però dallo studio di questo corno bellissimo del parasaurolofo si evince questo meccanismo di sopravvivenza. E quindi alla fine ho scritto un brano un po' spiritoso anche che parlava del parasaurolofo, quindi no, non è un disco che compattamente parla di questo, però per esempio c'è un brano che si chiama Carpentiere Cosmico e che narra proprio delle decisioni, delle vicissitudini di quello che sarà un mestiere del futuro. Nel futuro non ci saranno i muratori nello spazio, ovviamente, a mettere calci e mattoni nello spazio orbitante, poi magari sui pianeti terrestri, cioè fatti di silicati, sì, cioè quelli come la Luna, le lune, i pianeti su cui appunto ci sono metalli, si potrà fare, però nello spazio ci saranno i carpentieri che assembleranno le stazioni orbitanti, le basi spaziali orbitanti, quelle intermedie tra un pianeta e un altro, un asteroide e un altro, una luna e l'altra, oppure memorie di un minatore di asteroidi, appunto. Quindi sono un po' prese in rassegna alcuni dei mestieri del futuro, un po' delle sensazioni che si respireranno, un po' di quelle che saranno le prospettive, che sono comunque tutti mutuati a dei lavori dei lavori del presente, come dire che pure la tematica del lavoro deve essere in qualche maniera approfondita in questo momento in cui l'automazione, diciamo, sta pervadendo ogni aspetto della produzione ove possibile. Guarda, sì, io penso che tra l'altro si tornerà, come dicevo prima, verso una industria pesante, proprio perché si ritornerà verso le miniere, verso, cioè, l'estrazione, per questa brutale necessità proprio di colonizzare. Sì, sì, sì, proprio verso, sì, sì, proprio verso il movimento terra. Però su altri pianeti. Però questo che rilevi tu forse è un po' un limite mio, è stato anche un po' il limite mio a non aver saputo immaginare o giocare più di tanto su mestieri assurdi, tipo che ne so, sperimentatore di mettere a fatica l'immaginazione, sì, di sperimentatore di viaggi galattici conto terzi, non lo so, insomma è una cosa del genere che non ho fatto. Ho preferito in realtà giocare un po' sulla metafora della storia dell'autonomia operaia, sostanzialmente, quindi degli anni 70, terrestri e italiani in particolare, e proiettarli nello spazio, proiettarli, perché mi piaceva, appunto, mi piaceva giocare con questo continuo. Quindi diciamo, potrebbe essere un tema quello che dicevi te, non tanto l'aumento numerico nel terziario come è avvenuto in tutti questi anni e quindi in tutti quei, sì, lavori immateriali. Immateriali spesso assolutamente necessari, che anzi vengono privatizzati, come appunto ad esempio l'assistenza sanitaria, eccetera, e dall'altra parte con invece una serie di lavori assolutamente ridondanti, inutili in realtà, ai fini della anche della produzione della merce, se vuoi, ma comunque alla produzione di beni sicuramente. Che riguarda la fuffa, cioè tutto quello che. Ma guarda, allora io... questo va a scomparire. Ma guarda, io penso che in realtà come. Ad essere ridimensionato. Ma i processi sono tutti contemporanei. Oggi, per esempio, si parla tanto di capitalismo delle reti o delle piattaforme. Non credo che il capitalismo delle piattaforme, così come il capitalismo classico, quello mercantilista, non è che scomparirà. Diamo per scontato che alcune cose in realtà che noi pensiamo, do per scontato che alcune cose noi diamo ormai un po' per accantonate, soprattutto nella società occidentale, quindi per esempio l'estrazione mineraria è qualche cosa che ci siamo lasciati alle spalle, è qualche cosa che grava ancora su pochi paesi di quello che noi definiamo terzo mondo, e invece quello che ho immaginato è che torneranno prepotentemente in primo piano, proprio perché le risorse che troveremo al di fuori della biosfera le renderanno prioritarie. E poi perché? Proprio perché nello spazio, essendo un territorio, una geometria praticamente a questo punto illimitata, la stessa occupazione dei territori extraatmosferici e quindi dei coloni diventerà un grande affare, perché espandere l'umanità il più possibile all'interno di un territorio immenso come appunto il sistema solare e forse oltre, sarà per il capitalismo una come dire, proprio un la valvola che si apre. Esatto, una valvola che si apre, perché dovrà sfamare, dovrà produrre il famoso, quello che abbiamo detto fino adesso, supporto vitale per tantissimi miliardi di persone, e quindi sarà un nuovo slancio alla produttività e quindi un ritorno sicuramente all'industria pesante, in cui non scompariranno, anzi diverranno assolutamente ancora più efficaci tutte le innovazioni tecnologiche e materiali. C'è tutto un filone della fantascienza, ad esempio, che parla dei viaggi dei mercantili. Assolutamente. Dei viaggi, certo, dei mercantili, cioè sì, non sì, di navi che servono a portare persone, a, certo, scoprire mondi, perché molto si mette l'accento, no, in Star Trek, certo, nella scoperta. Beh, e quindi negli esploratori. Quella è un'utopia, sì, infatti. Invece, dall'altra parte, da Alien, esatto, ci stanno, perfetto, invece questi che hanno i cargo. Hanno, sì, le astronavi minerarie. No, io credo che sia proprio così, anzi, credo che a questo punto, quando... in modo utopico noi vogliamo guardare alla fantascienza, anche per ispirarci a cercare di immaginare un mondo diverso, qui si apre proprio esattamente lo spiraglio che dicevi tu, la biforcazione, da una parte l'illuminismo anche un po' di maniera, anche un po' come dire adolescenziale di Star Trek, però interessante, la Federazione di Pianeti Uniti, che sostanzialmente un posto dove ogni tanto, sì, a parte il primissimo stagione di Star Trek, ma in cui sì avvengono delle scaramucce, ma il senso è quello dell'accrescimento morale dell'umanità. Dall'altro invece c'è tutto il filone, appunto, da Alien in poi, ma anche Blade Runner in parte, che guardano Total Recall, che guardano invece al ritorno di un di meccanismi che sono stati specifici sul nostro pianeta, l'hanno trasformato e che adesso saranno importanti per trasformare i pianeti che verranno. Quindi, per tornare a quello che dicevi tu, la domanda iniziale, sì, il disco è immediatamente all'interno di questa tematica, non c'è un avvicinamento da oggi a quando arriveranno, anche perché, anche questa è la domanda che mi facevi prima tu, perché non lo vedo come un processo così distante, lo vedo come un processo su cui dobbiamo iniziare a ragionare oggi. Ok, per cominciare a ragionare oggi, cosa ci consigli? E poi diciamo che essendo 50 minuti dopo la mezzanotte, okay, magari ci diamo un secondo appuntamento. Quindi ci sentiamo questo qualche... bellissimo brano sul Parasavaro Lofo. Sì, assolutamente sì. Assolutamente che, è il terzo, sì che è il terzo brano, che si chiama La guerra fredda dei Pet. Stasera è il momento dei gambi così azzardati. Allora, dicevamo prima, avviamoci verso la conclusione, quindi Cobol, dove ti potremo, facendo la domanda più o meno ho fatto gli altri, dove ti potremo incontrare in tutte le forme che ti appartengono, cioè conferenziere. Tra l'altro io ti volevo prima provocare sul, dal punto di vista del, dell'oggetto qui che è il ventilatore, anche su quello, no, potresti parlare a lungo, anche se questo è veramente bruttino, insomma, non sì, mi pare questo, è oggetto... questo è già ergonomico, io potrei parlarti, intrattenerti a lungo sugli oggetti non ergonomici, quelli disfunzionali, certo, sugli elettrodomestici che producono danni e sono disfunzionali. Lo facciamo allora, dedichiamo una puntata tutta agli oggetti disfunzionali, anche se alcuni accenni, alcune pillole le avevamo dati nei nostri incontri precedenti. Sì. Però diciamo, ecco, ritornando a Bumba sulle cose pratiche, dove ti potremo incontrare, che progetti, che invidi, sono molto meno famoso degli altri o che cosa ti stai procurando, insomma. Guarda, allora ho una data a breve qui a Roma, non faccio pubblicità al locale, io sono raramente nei locali, ma saranno in un locale qui a San Lorenzo. E poi invece no, c'è per adesso di già confermato, c'è una data il 13 agosto, se non sbaglio, in questo festival che io non conoscevo a Chieti, che si chiama il Festival delle Cose Belle, mi piace molto il nome, che io non conoscevo, è un po' di anni che lo fanno e quindi sarò lì il 13, se non sbaglio. Chieti tra l'altro è una città interessante. Non ci sono mai stato. No, no, sì, nemmeno io, non è che la conosco così profondamente. Però è una città interessante anche per il tipo di persone che poi sono venute. No, sono venute da Chieti. Ah, ok. Okay. Un sacco di gente, diciamo, che nelle più Caparezza, molteplici da lì, No, Caparezza dovrebbe essere più di giù, verso la Puglia. Ah, okay. Comunque sì, loro già sono quasi. E vabbè, come tutte, diciamo, i chietini sono megalomani. E questa cosa qui bene, un pochino li avvantaggia nel discorso dell'utopia di prima. Certo, vabbè, comunque no, questo festival, dicevi, scusa. Sì, questo festival, e poi in realtà c'ho un altro paio di date, diciamo il grande è già stato fatto, perché nel senso sono stato a Torino e a Lucca proprio poche settimane fa, e per adesso c'ho un altro paio di cose ancora da confermare, comunque sul mio sito, insomma, le cose si trovano. Poi, insomma, come dicevi te, io più che altro no, magari ecco, ne approfitto per dire questa cosa, che invece a ottobre uscirà il mio prossimo libro, che si chiamerà Cosmo Anticapitalismo, tutto attaccato, e che è un po' la storia, un breve libro che è un po' la storia per schede di tutti quei pensatori, movimenti, io li ho chiamati un po' metaforicamente di tutti quei soggetti della prima internazionale, perché dentro ho annoverato anche non non antagonisti, però illuminati, che hanno ragionato sullo spazio, di nuovo sullo spazio extraterrestre, sullo spazio extra atmosferico, come luogo del conflitto o come luogo dell'utopia. Quindi da Hannah Arendt a Gramsci, Bogdanov, a le ZLN, oppure comunque essenzialmente Posadas, nel secolo scorso, fino ai tempi più recenti, dal cosmismo, quindi dall'850, fino allo xenofemminismo, passando per l'ufologia radicale, passando per gli astronauti autonomi, la chiesa del subgenius, il posadismo, ma anche il paradismo, che è questo movimento molto interessante. No, alcuni ci sfuggono, dobbiamo dire. Sì, lo troverete nel libro, infatti sto cercando in qualche modo di rendere curiosa la cosa. Comunque, di tutti, come dicevo, di tutti quei soggetti rivoluzionari e o diciamo pararivoluzionari che hanno ragionato sullo spazio extraatmosferico, anche se non solo esclusivamente, perché Hannah Arendt ad esempio ha accennato a questo con l'agosmismo, o Gramsci ancora meno, Bogdanov invece è un personaggio, il suo Proletkult Kultest è un personaggio che ha ragionato molto su questo e che è un po' il capostipite, ma dentro c'è anche Jack Person, che è un marxista esoterico che ha gettato le basi per lo GPL della NASA, insomma un sacco di personaggi, i Wu Ming stessi che hanno scritto Prolet Cult ispirandosi proprio al racconto di Bogdanov, Stella Rossa, insomma una raccolta per schede, un libricino di 130 pagine, 140 pagine, che racconta appunto proprio di tutti questi soggetti che hanno ragionato sullo spazio, proprio perché quello che dicevo prima, in fondo, cioè l'idea che già oggi noi dobbiamo ragionare in maniera antagonista rispetto all'accesso allo spazio, e quindi questa è una cronostoria più o meno, alcune cose un po' forzate, un po' appunto lo xenofemminismo non parla proprio esattamente di spazio, ma parla del divenire alieni, e quindi trova posto in questa rassegna. Bene, quindi ci aspettiamo il libro per settembre ottobre e per maggio il disco nuovo ispirato a... vediamo, sì poi comunque a me le cose succedono un po' così in divenire, quindi diciamo non c'ho sicuramente un mini tour da proporvi, perché faccio l'angolo del pianto, non mi vuole nessuno. No, sto scherzando, però bene, sì però assolutamente sì, trovate sui social, trovate sul mio sito tutto quello che faccio, insomma. Va bene, grazie. Allora per ora vi salutiamo qui, una traccia, poi ce ne andiamo, la sigla, insomma, fare i miei saluti finali, dai. Bene, ciao a tutti. Ormai luna, onda rossa, 87.9 della modulazione di frequenza, puntata piena. Ritornati qua alla base. In via dei Volsci 56, 06 4917 50. Ovviamente troverete la puntata più o meno pubblicata sul sito della radio. Se vi doveste essere persi qualche passaggio importante, la programmazione della radio finisce qui, in diretta continua domani mattina, dopo che vi avrà tenuto compagnia la compagna automatica Sonata con le sue repliche e le sue selezioni musicali, si riprenderà con la rassegna stampa. Le prime pagine dei giornali, la rassegna stampa, cittadini e redazionali della mattina, tutta scena a cinema, Attica Blu, La Schiena del Sole, Il Mezzedes, Tabula Rasa. I cuginetti di Apostasia alla fine, dopo questa lunga pausa, l'abbiamo detta tutta. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro che ci ascoltano nelle condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, centri di detenzione per migranti. E tutte le procedure amministrative che comunque ci tengono per qualche motivo con decreti amministrativi repressivi o securitari attaccati al nostro lavoro, alla nostra abitazione. Noi non ci sentiamo mercoledì prossimo, di nuovo una pausa, poi il mercoledì successivo non ci ricordiamo che giorno è, comunque dopo il 5-6 luglio, adesso non ricordiamo esattamente la data, quando sarà. E poi chissà, fino a che avremo forza di ritornare qua a San Lorenzo. Bella a tutti e a tutte, 25 o'clock è tornata alla base, dai, a risentirci.